programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E quante cose abbiamo da raccontarci, come sempre, si arriva al sabato alla fine della settimana e siccome questo è un programma per me, per voi, per commentare insieme, ritrovarci a commentare insieme il sabato i fatti della settimana, ritornando quindi sulle notizie che vi hanno colpito di più, che vi hanno fatto più riflettere, chiacchierare con colleghi, amici e parenti, ce ne sono moltissime e molto complesse e anche molto stimolanti anche questa settimana. Quindi io vi ricordo da subito, immediatamente, il numero verde al quale potete chiamare tutta l'ora, dalle 14 alle 15, ma chiaramente più verso l'inizio che non verso la fine, quando poi sapete che vado di corsa. Il numero verde che è 800 24 0024, quindi numero gratuito 800 24 0024. Qual è stato il tema, la notizia, il fatto che in questi giorni vi ha colpito in modo particolare e sul quale volete dire liberamente la vostra, come succede qui a Non ci sono più le mezze stagioni? Tra poco naturalmente mi farò dare una mano sostanziosa dal mio opinionista estemporaneo di oggi, però come sempre mi chiedo e vi dico all'inizio che cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Allora, diciamo, da un punto di vista così astronomico e meteorologico, ecco, ve lo posso dire questa settimana, questo sabato, pensate che idea ha avuto una donna spagnola. Non so se ci avete mai pensato. Lei ci ha pensato. A volte è la scoperta dell'acqua calda. Sì, ma qualcuno ci deve pensare, però. Allora, questa donna, che è galiziana, quindi sta nella regione della Galizia, della Spagna, si chiama Ángeles Durán. E che cosa ha pensato di fare e di richiedere? Si è dichiarata davanti a un notaio in Spagna proprietaria del sole. Uno diceva, insomma, prima le cose sembravano di tutti, no? Fino a ieri quantomeno. C'erano le mezze stagioni, adesso non ci sono più, perché questa donna, Ángeles Durán, ha deciso che il sole è suo. Dice, per usufrutto, dato, questa è la spiegazione che ha fornito, dato che da 5 miliardi di anni non se ne conoscono di altri proprietari. Quindi lei dice, il sole è mio. E un notaio adesso si è occupato di questa faccenda, un notaio spagnolo, perché sembra una questione seria. Nessuno l'ha rivendicata finora la proprietà del sole, quindi lei ha detto, è roba mia. E secondo questa donna esiste una convenzione che proibisce ai paesi, quindi alle nazioni, di dichiararsi proprietari dei corpi celesti. Non è che l'Australia può dire sono padrone della luna, ma che non si applica però questa legge ai privati. Quindi uno statunitense, pensate, che si sarebbe appropriato in tal modo della luna e della maggior parte dei pianeti. Voi pensavate, sono di tutti? No, c'è già un americano che se ne è appropriato, dimenticandosi però della stella principale, che è appunto il sole, e subito ci ha pensato questa spagnola. Quindi non ci sono più le mezze stagioni, ci sono invece per altri versi. Sapete che ci sono sempre il rovescio, il dritto della medaglia. Anche questa settimana non sono mancati ammazzamenti di donne, del resto in Italia uno ogni due giorni, ce ne sono stati due o tre, due sicuramente questa settimana, tra cui questa bellissima ragazza, non perché valga di più la vita di una donna bella o di una donna meno bella, però ha fatto particolare impressione anche sua madre in televisione, Emiliana Femiano, questa ragazza di Terracina, che è stata uccisa con 10 fendenti dal suo ex fidanzato. Ma la cosa particolare, anche questo ci conferma che le mezze stagioni in realtà ci sono, che le cose non cambiano. Che cosa è successo? Già tempo fa lui aveva tentato di ucciderla con altre 10 coltellate, cioè il numero tondo era fissato con quello. In quel caso ci fu un passante che per fortuna riuscì a difenderla e si salvò proprio per un pelo. Lui era stato arrestato, condannato a 8 anni, però guarda caso era agli arresti domiciliari, e così è riuscito finalmente nel suo intento. Quindi cose che cambiano e cose che invece restano sempre uguali. Vi ricordo che due giorni fa, 25 novembre, è stata la giornata internazionale della violenza contro le donne, che sembra quasi, insomma, una retorica, perché poi le cose continuano. Almeno facciamo un promemoria, almeno l'ONU ogni tanto ne parlano, si fa il post-it su quella giornata e poi dopo si continua naturalmente come sempre. Anche noi continuiamo qui a Non ci sono più le mezze stagioni, è tempo quindi di andare sulle altre notizie. Signori e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi è... Aldo Cazzullo. Buongiorno. Buongiorno Aldo. Viva l'Italia, possiamo dire? Assolutamente. momento. Viva l'Italia perché non soltanto ci teniamo a dirlo, ma è anche il titolo a caratteri cubitali dell'ultimo libro di Aldo Cazzullo, pubblicato da Mondadori, sottotitolo Risorgimento e Resistenza, perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione. E nella quarta di copertina Aldo Cazzullo scrive: talora parliamo dell'Italia come se non fosse una cosa seria, ci pare impossibile che siano esistiti uomini e donne per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita e per cui viva l'Italia furono le ultime parole. Prima di chiederti, Aldo, di parlarci in 3 minuti del tuo libro, ti volevo chiedere, visto che parli di Unità d'Italia, della sua origine, il risorgimento, la resistenza, eccetera, eccetera, secondo te la questione della monnezza a Napoli, il fatto che si è chiesto, almeno ieri, da un po' si chiede in realtà alle regioni di prendersene un po' carico, di mostrare solidarietà insomma nei confronti della Campania. Ieri il ministro dei rapporti con le regioni Fitto ha detto: beh, insomma, abbiamo trovato un po' un accordo unanime, lunedì convochiamo le regioni perché ognuna potrebbe farsi minimamente carico di leggevo che secondo i dati forniti proprio da Fitto, se ogni regione si prendesse al giorno un solo camion di immondizia, adesso non ricordo ma non è per moltissimo tempo, si risolverebbe la situazione. Poi il ministro Calderoli ha detto ieri: ma insomma, questa non è una cosa che si deve decidere a livello centrale, ma le regioni devono avere la loro autonomia e decidere se gli va o meno di fare questa cosa. Ecco, sulla questione della monnezza si può giocare anche la tenuta dell'Unità d'Italia, secondo te? Magari l'Unità d'Italia non è a rischio per questa questione, ma questa questione è sicuramente significativa, cioè simbolica delle difficoltà, della frattura che c'è, non solo tra nord e sud, ma tra le varie regioni. È evidente che c'è una seria responsabilità da parte della Campania, perché torna dopo 2 anni una situazione di emergenza che sembrava risolta, quindi è evidente che in loco ci sono delle gravi responsabilità. Senti, però ti interrompo, perdonami, solo un secondo, Aldo. Ci sono le responsabilità giustamente della Campania, degli amministratori locali, forse in parte anche dei cittadini, però senza scaricare su di loro poi una questione che li riguarda, sì, ma in parte, no? Loro possono fare anche la raccolta differenziata, cercare di essere ligi, ma poi dopo se la monnezza rimane lì. Ma ti dicevo, però non è anche sbagliato... Ma infatti, se mi lasci parlare non c'erevo. No, volevo solo dirti questo. E secondo me è grave... Ma non è sbagliato, Aldo, perdonami, andare lì ogni tanto e dire tutto è risolto in poco tempo e poi dopo non è risolto? È evidente che anche gli annunci continui di Berlusconi, che prima 3 giorni e poi 2 settimane, tra 2 settimane tutto sarà pulito, non aiutano. Però, se mi lasci dire, sì. Io trovo grave anche il fatto che non sia venuta una solidarietà dalle altre regioni. Trovo grave, ad esempio, che il presidente del Veneto definisca 4 sassi Pompei, che è una ricchezza per l'Italia intera, più grande sito archeologico del mondo, che nel resto del paese abbia impiegato giorni prima di rendersi conto che il Veneto era sott'acqua e aveva bisogno di aiuto. Cioè, questa vicenda mi sembra esemplare di questo scollamento che si comincia a vedere. Dopo anni in cui la Lega invitava a fare un uso improprio del tricolore, oggi il tricolore viene bruciato nella rivolta dei rifiuti di Terzigno. Sta diffondendo la mentalità al nord, non solo tra i leghisti, secondo cui il nord non è la Germania a colpa del sud, che è una palla al piede che succhia i soldi, e al sud, non solo tra i neoborbonici, si sta diffondendo la mentalità secondo cui il sud è sud per colpa del nord, che lo ha invaso, colonizzato, depredato e continua ad esempio a smistare i rifiuti nocivi. Alla fine, al di là del fondo di verità che ci può essere dietro questi mugugni reciproci, la logica è esattamente la stessa. La colpa non è mai nostra, la responsabilità è sempre degli altri. Questa è la logica che io denuncio nel mio libro, e scommettendo sul fatto che noi italiani in fondo ci siamo ormai talmente mescolati tra di noi che tutto sommato siamo più legati al nostro paese di quanto non ci piaccia ammettere. Che cosa direbbe dell'Italia di oggi Garibaldi? Garibaldi conquistò un regno e se ne andò in esilio a Caprera, portando con sé non i quadri di Caravaggio, non l'oro dei Borboni, non i gioielli della corona, ma un sacco di sementi per il suo podere di Caprera, un sacco di fave di cui era ghiotto e uno scatolone di merluzzo secco. Ecco, è chiaro, di fronte a esempi simili di disinteresse per le cose materiali, l'Italia di oggi in cui la politica è sempre diventata, non sempre ma spesso, un modo per fare soldi, la prosecuzione degli affari con altri mezzi, è chiaro che l'Italia di oggi sarebbe giudicata con severità da coloro che l'hanno costruita e anche dai volontari della Grande Guerra o dai partigiani o dai militari che combatterono per la liberazione durante la guerra civile. Però questo non ci esenta dalla responsabilità, anzi ci richiama alla responsabilità, perché dobbiamo essere noi all'altezza del patrimonio che la natura, i nostri padri ci hanno consegnato il paese più bello del mondo, ma questa non può essere una consolazione. L'Italia non è soltanto il bel paese, essere consci di noi stessi, della nostra bellezza, delle nostre particolarità, dei saperi che nessun falsario potrà mai imitare, delle cose che nessun'altro potrà mai portarci via, ci deve essere non una consolazione ma uno sprone, un punto da cui ripartire. E dal libro di Aldo Cazzullo, Viva l'Italia, poi ve lo citerò in altri appuntamenti qui nella trasmissione per ricordarvi anche se lo voleste leggere. Vi ricordo anche, a parte il numero verde al quale potete chiamare per intervenire, 800 24 00 24, una cosa che non ho mai detto in tanto tempo, e che la trasmissione, se volete, potete riascoltarla quando volete sul sito di Radio 24, www.radio24.it. E c'è anche novità eccezionale da oggi, una pagina Facebook dedicata alla trasmissione, quindi potete andare sia lì, potete andare sia sul sito, potete riascoltarla nei punti che volete o anche tutta, perché no. Tra poco c'è Nicola da Milano e Luigi da Pistoia, avremo anche un collegamento come sempre extraplanetario per avere più punti di vista, però intanto vorrei già dare un po' la parola a Nicola da Milano, così cominciamo a far passare gli ascoltatori. Nicola? Sì, pronto? Buongiorno Nicola. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire sull'intervento sì, di Berlusconi alla trasmissione Ballarò di martedì. Guarda, io parlo da cittadino, cioè io come cittadino veramente mi vergogno del Presidente del Consiglio, cioè non è possibile che una persona, per carità adesso non è che voglio fare un attacco frontale a Berlusconi, però io penso che una persona che ha un giornale personale dove può rispondere eventualmente a degli attacchi come Berlusconi potrà tranquillamente evitare di intervenire alla trasmissione e fare un bell'articolo in prima pagina dicendo, non so, il conduttore secondo me è stato un mistificatore, il conduttore ha fatto questo, il conduttore ha detto quest'altro, quindi secondo me è inutile anche accettare il fatto che un presidente che viene criticato, giusto, sbagliato che sia, debba poi intervenire di persona a una trasmissione. Cioè, secondo te, Nicola? Io se fossi stato presente a quella trasmissione, mi sarei alzato e le avrei detto, Presidente, la pianti, io sono un cittadino, la pianti, perché e si vergogna. Ma quindi, Nicola, scusa, tu non stai contestando il contenuto di quello che ha detto, ma il gesto di intervenire? No, contesto anche il contenuto, però il gesto in sé è veramente di arrogante, non so come dire. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, però veramente un'arroganza così io non l'ho mai vista. Poi credo che si fossero messi d'accordo con Floris, solo che doveva essere una specie di botta e risposta, di domanda e risposta, invece poi Berlusconi ci è andato dritto, ecco. Il fatto stesso comunque, al di là dell'intervento che poi comunque è stato anche interrotto bruscamente da Berlusconi, già quello, insomma, se permette, è una grossa maleducazione, anche nei confronti di Floris, che comunque poi devo dire, ha risposto veramente da gran signore. Nicola, è stata una persona che si è controllata, per carità, lui comunque avendo il giornale e sua proprietà poteva rispondere tranquillamente, giorno dopo, prima pagina. Chiarissimo, è un mistificatore. Chiarissimo, va. Nicola, ti ringrazio. 800 24 00 24, ci sono poi molte altre telefonate, quindi man mano diamo spazio, c'è Giorgio De Luca che già sta cominciando a ricevere le vostre telefonate, telefoni bollenti, però anche un collegamento satellitare, interplanetario, extraterritoriale, come possiamo dirlo, è con Marte. Riflessioni da Marte. Ogni settimana, lo sapete, osservo con il mio telescopio il globo terracqueo e in specie l'Italico Stivale da quassù, da Marte. E mi pare di notare come di aver lanciato una specie di moda, direi anzi di alta moda, dato che in pratica questa cosa si pratica dall'alto, visto che tutti ora si mettono a guardare il bel paese per l'appunto da una certa altezza. Chi su una torre, chi da una gru, chi dai tetti. Effettivamente si ha tutta un'altra prospettiva dall'alto, bisogna dirlo. Da che prospettiva bisogna invece guardare la monnezza di Napoli e Campania? Il sacchetto dove lo metto non si sa, va a finire che non c'è posto per carità. L'importante però, come disse qualcuno, è la sobrietà. Da che prospettiva, dunque, dicevo, qui dall'alto del pianeta marziano, bisognerebbe guardare la monnezza napoletana? Forse da quella di un complotto? Chi dunque nottetempo dissemina in Fingardo Napoli di tonnellate di monnezza che altrimenti non ci sarebbe affatto? Gli inquirenti brancolano nel buio e non soltanto loro. Ma i colpevoli potrebbero essere forse per esempio gli omosessuali? L'omosessualità del resto sopra ogni cosa è immorale. Lo ha ribadito Benedetto XVI che ha anche detto l'omosessualità è una grande prova di fronte alla quale una persona può trovarsi. Ed effettivamente la più grande forse... La più grande prova proprio quella di sentir ribadire la discriminazione sul proprio modo d'amare proprio da chi è portavoce di un messaggio di pace universale. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, voglio stare con te. Seguire con te tutte le onde del nostro destino. Ritorniamo con i piedi per terra, come sempre è necessario. 800 24 0024 per le vostre libere opinioni sui fatti della settimana. C'è sempre Aldo Cazzullo. Aldo, secondo te la questione della monnezza di Napoli, Pompei che crolla, l'inchiesta su Finmeccanica, possono essere originate da un complotto contro l'Italia? Ma certo che no. Anche qui diciamo prima che è ridicolo che il nord dia sempre la responsabilità al sud o il sud la responsabilità al nord. A maggior ragione sarebbe ridicolo che vedessimo una minaccia esterna contro l'Italia. Anche il modo in cui oggi viene revisionata Tangentopoli, appunto come un grande complotto, gli americani, sono cose ridicole. Noi siamo fabbri del nostro destino, soprattutto adesso che l'Italia, per fortuna, credo non è più la frontiera della guerra fredda, è un paese strategicamente molto meno importante di quanto fosse fino all'89. Quindi non c'è nessun complotto dietro Tangentopoli, non c'è nessun complotto dietro le difficoltà. Le difficoltà ce le fabbrichiamo da noi stessi. Abbiamo tre regioni in mano alla criminalità organizzata che si espande anche al di fuori di quelle regioni. Correvano le polemiche di questi giorni per sapere che la mafia investe anche al nord, e quindi siamo noi che siamo i responsabili. La mafia investe al nord anche perché al nord trova parecchi manutengoli, trova persone disposte a figurare come proprietari di beni che non sono loro, trova commercialisti, trova avvocati, trova personale, manovalanza, anche ben pagata. Quindi dire che la colpa è degli altri è una cosa che serve a far prendere gli applausi nei talk show, serve a tenersi pulita la coscienza, ma non aiuta a risolvere i problemi. Stavo leggendo tra l'altro su Corriere.it un allarme lanciato dai costruttori veneti che dicono la crisi apre le porte alla mafia, il presidente dell'ANCE Pellicciari che dice le infiltrazioni mafiose sono dappertutto e le imprese hanno un bisogno disperato di finanziamenti, rischiamo tanti totorina in giro per la regione. Però vorrei andare alle telefonate che sono davvero tante, quindi poi mi dicono insomma non ci dai spazio. Andrea da Chieti. Perdonami Andrea, c'era Luigi da Pistoia, ho perso un attimo il segno, scusami. Luigi? Sì, scusa, ciao. Abbi pazienza, ciao Luigi. Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Senti, no, io voglio intervenire sulla polemica che c'era stata per la trasmissione di Fazio e Saviano sull'eutanasia. Sì. C'era queste associazioni pro vita che volevano leggere anche loro una lista di motivazioni. Chi come me ha fatto il testamento biologico si sente un attimino, cioè noi difendiamo solamente una libertà di scelta. Senti Luigi, ma tu, siccome è passata una circolare del Ministero della Salute non solo nei giorni scorsi, indirizzata ai comuni per dire guardate che non vale, questi registri non valgono di testamenti biologici che avete fatto a livello comunale. Per me è una cosa scandalosa, è la mia opinione, cioè la mia volontà non vale veramente niente allora. Cioè io ho fatto una scelta redatta su carta e tutto, cioè non avrà fini legali, però avrà un valore morale spero. Perché Fabio Fazio ha detto, se qualcuno si ricorderà naturalmente, visto che è stata seguita da 10 milioni di ascoltatori, di telespettatori, l'ultima puntata di Fazio e Saviano, Vieni via con me, che hanno invitato il papà di Eluana Englaro, sapete quel caso, no? Di quella ragazza che per 17 anni è stata un vegetale in un letto e poi tra tante lotte che ha fatto il padre e la madre, ormai era malata da tempo, si è riusciti insomma a staccare la spina, visto che non c'era più nessuna possibilità dopo 17 anni che ritornasse in vita Eluana. E poi c'era anche la moglie di Welby, quest'uomo che anche lui per tanti anni era rimasto bloccato in un letto d'ospedale con anche l'aria che veniva mandata nella trachea da una pompa costantemente, che aveva scelto appunto di staccare questa pompa, e la Chiesa Cattolica poi non gli aveva dato il permesso di fare i funerali in chiesa per questa cosa. Ecco, ne parlavano in modo molto, molto doloroso, ma anche molto civile, molto sereno, nella trasmissione di Fabio Fazio, di Fabio Fazio e di Saviano. E questi movimenti pro vita hanno chiesto di poter partecipare anche loro, così come replicò Maroni a Saviano, di poter essere presenti. Fazio ha risposto ieri no, perché questo significherebbe che allora quella trasmissione è stata promorte, ma non è stata promorte. Dice: semplicemente abbiamo riportato la testimonianza di chi dice io vorrei poter decidere da me, poi ognuno. Questo è il concetto, Luigi? No, certo, infatti come ho detto prima non è una trasmissione promorte, cioè noi, come io non dico che tutti la devono pensare come me, ma neanche che la mia volontà deve essere messa in secondo piano. Cioè, se io non voglio vivere in una certa maniera o preferisco l'eutanasia a vivere attaccata a dei tubi, o so che devo morire, non voglio soffrire, cioè deve essere libero di farlo. Luigi, ti ringrazio di questo, e vorrei passare la palla ad Aldo Cazzullo prima degli altri ascoltatori, sempre al numero verde 800 24 00 24. Cosa ne pensi di questa storia del testamento biologico che si dovrebbe discutere in Parlamento da tanto tempo, ma sembra che non abbiano nessuna intenzione di affrontarla? Ma guarda, forse sotto certi aspetti, ad esempio il famoso decreto che fu varato nei giorni della morte di Luana, che fu poi respinto dal Presidente della Repubblica, ci sono degli aspetti che forse è bene che non vengano disciplinati da norme, nel senso che c'è una zona grigia, insomma, una zona affidata alla valutazione caso per caso, alla pietà dei medici, ai sentimenti dei parenti e anche dei malati, qualche volta anche dei malati terminali. Certo. È una zona che non ci sono regole definite, scritte per legge, che poi viene risolta giorno per giorno negli ospedali. E io credo che questo debba rimanere così, non penso che il legislatore debba andare col suo ditino puntato. Ma tu sei d'accordo che se di alimentazione, io credo che sia giusto che ci sia un margine di discrezionalità lasciato, ripeto, alla pietà dei familiari e dei medici. E anche la volontà del malato? È la volontà del malato, scusa Aldo, se fosse ancora lucido, la lasciamo. Anche quella del malato, anche se mi spiegava Veronesi che il malato, finché è lucido, non chiede di morire, spera ancora fino all'ultimo di guarire. Quindi molto spesso la questione, un po' tutti ci siamo passati, io credo, con una persona cara, molto spesso la questione viene risolta, ripeto, in quei giorni drammatici in cui non credo che sia giusto che il legislatore debba disciplinare giorno per giorno, momento per momento, la febo, quanto cosa ci deve essere nella febo, se deve essere cibo sufficienza, se questo va considerato alimentazione forzata, se non va considerata alimentazione forzata. Credo che sia giusto, in un quadro ovviamente di regole generali, che poi i singoli casi vengano affrontati nel modo che dicevo. E per quanto riguarda la trasmissione Fazio a Saviano, io credo che una trasmissione debba essere libera, e quindi non è detto che necessariamente in quattro puntate tutti abbiano diritto di parola. Io non consideravo così indispensabile neanche che ci fosse lo spazio di Maroni. Anche perché Maroni non è un talk show, no? Tutte le trasmissioni possibili e immaginabili. Non mi sembra una cosa così scandalosa. Ascolterei volentieri sicuramente anche storie di persone che hanno fatto scelte diverse da quelle di Bempino Englaro. Credo che non manchino in televisione gli spazi per farlo. Non mi sembra che si possano obbligare degli autori, dei conduttori. Penso che sia giusto che in quattro puntate possano decidere loro chi invitare. Andrea da Chieti, eccoci qua. Andrea. Eccoci. Oh, eccoci qua finalmente. Allora, un complimento per la voce, che è fantastica. Andrea. Una voce radiofonica al massimo livello. Sì, denti allora, che brividi, ascolti. Sì. Dimmi. Io ho telefonato, prima dell'argomento per cui ho telefonato, mi prendo 10 secondi per dire che... 10, comincio a cronometrare, aspetta che io ho un cronometro. No, allora 20, allora me ne prendo 20. Dai, 22. No, per sottoscrivere in pieno, io considero molto acuto il primo commento in apertura di trasmissione che ha fatto il suo ospite, Aldo Cazzullo, che apprezzo tanto, perché leggo spesso i suoi articoli. Considero verissimo il fatto che ci sono segni di scollamento nel paese, è un commento molto acuto che sottoscrivo, per esempio il commento che faceva il leghista su Pompei, oppure il fatto che nessuna regione o quasi nessuna si è fatta avanti per dare una mano. La Toscana in primis si è fatta avanti. Ecco, questo veramente credo che abbia ragione Cazzullo, è sintomo di uno scollamento del paese, di una mancanza di solidarietà, e questo in prospettiva renderebbe anche, dal mio punto di vista, abbastanza terrificante l'applicazione del federalismo, perché il federalismo, secondo me, laddove applicato, deve basarsi anche su sulla una solidarietà. Certa solidarietà. Se manca la solidarietà, il federalismo diventa un abbandono anche del confinante, che in questo caso è comunque un italiano, fa parte della nostra storia. Non so, questo è veramente grave. Però vengo all'argomento per cui ho chiamato. Io ho chiamato per il commento che mi ha molto indispettito. C'è da dire una cosa: tutto quello che commenta Berlusconi, tutti i commenti che fa Berlusconi, mi indispettiscono molto da cittadino italiano. Io non lo sopporto proprio, questo individuo. Io mi vergogno veramente di averlo come Presidente del Consiglio. Però è stato gravissimo il commento che ha fatto sull'inchiesta su Finmeccanica. Ieri seguivo Focus Economia, Barisoni l'ha definita una castroneria, ma è stato buonissimo, perché in realtà è molto grave che un Presidente del Consiglio si esprima dicendo che è suicida, è ignobile, indegno, non mi ricordo bene che termine ha usato, sicuramente ha parlato di suicidio. Suicida, sì. È suicida il fatto che una procura metta sotto inchiesta e si occupi delle faccende di una delle eccellenze che abbiamo in Italia, fermo restando che Finmeccanica è sicuramente un'eccellenza della manifattura, dell'industria italiana, però se ci sono basi su cui indagare, si parla di fondi neri, si parla di scudi fiscali, non so, il commento di Berlusconi va al di là della gravità del commento in sé, del significato letterale, perché lui è un Presidente del Consiglio. Io parlerei anche di tentativo quasi di influenzare chi sta indagando in questo senso, perché sa, si metta nei panni del procuratore o di chi sta indagando, un commento del genere sembra quasi un avvertimento. Andrea, senti, posso chiederti di cosa ti occupi, se me lo vuoi dire, se no, amici. Io sono dottore commercialista. Dottore commercialista, chi vedresti se andasse a elezioni anticipate, probabilmente a marzo, se succederà, chi vedresti al governo tu? Mi sta chiedendo chi voto? Sì, se vuoi dirlo, se no. Allora, io voto Italia dei Valori perché apprezzo moltissimo Tonino Di Pietro. Glielo dico senza peli sulla lingua, non ho problema a dichiarare il mio voto. Guardi, devo riconoscere che io sono cultura di sinistra, io sono non dico estrema sinistra, ma insomma, dal punto di vista delle ideologie sto a sinistra. Devo riconoscere che a sinistra non abbiamo elementi di spicco. Una speranza è Nichi Vendola, ecco, che lo vedo un personaggio in grado di dare quel plus, di combattere con Berlusconi, non dico ad armi pari, ma comunque con il suo con una certa efficacia, un eloquio sì, davvero coinvolgente. Andrea, allora adesso, visto che sono passati più di 22 secondi e anche il resto dell'altro argomento, ti ringrazio e chiedo ad Aldo Cazzullo se ti piace Aldo Nichi Vendola. Ma guarda, mi piaceva di più una volta, ti confesso, nel senso che io lo conosco bene, sono stato tantissimo affascinato appunto dal suo eloquio e non solo, dalla sua storia, è stato bellissimo, il suo un uomo politico molto affascinante. Adesso mi pare sia entrato un po' in una deriva narcisistica, non lo capisco più, cioè uso delle formule sempre di grande richiamo, di grande fascia, ma è suggestivo, lo capisco benissimo. Ha visto la sua popolarità, legittimamente fa il suo ruolo di capo partito, è stato rilanciato alla grande dall'errore clamoroso di D'Alema e Bersani in Puglia, però con Pisapia forse vedere, anche a Milano c'è bisogno di, per se si vuole sconfiggere Berlusconi ci sarebbe bisogno di un'intesa molto più larga di quella tipo Fronte Popolare o tipo Progressisti 94, che però mi pare che lui stia un po' corteggiando anche l'UDC, o sbaglio? Ma l'UDC non credo che possa allearsi con anche me. Secondo me, anche se dicono che vanno a cena insieme con Casini, i loro reciproci compagni, la moglie di Casini e il compagno di Nichi Vendola, però poi li vedo nella cuore politica un po' diversa la situazione. Claudio da Vicenza. Sì, pronto? Claudio, eccoci qua. Pronto. Ah, buongiorno Roberta. Buongiorno. Dai, è suo ospite. Senta, io vorrei parlare un po' dell'immondizia di Napoli, no? Dell'immondizia di Napoli, scusami, sì. Ecco. Allora, noi nel 2000, qua nel nostro comune, in provincia di Vicenza, abbiamo cominciato a fare la raccolta differenziata. Cioè l'umido in casa, sa anche lei com'è l'umido certo in casa, il secco, la plastica, il vetro e si porta tutto all'ecocentro, oppure vengono io il sabato mi perdo via, praticamente porto foglie, vetro, tutto all'ecocentro. Le già portate? Le già portate o le porti sì, dopo? Sì, ogni sabato faccio sempre sto lavoro. Non qua. Durante la trasmissione, mi raccomando. No. Ecco. Allora io direi, da buon italiano, per questa volta si potrebbe anche il Veneto, no? Prendere un po' di spazzatura di laggiù, un po', cioè una proporzione. Claudio, per questa volta, no? Una volta sola, dopo basta, devono imparare anche loro come facciamo noi, perché le leggi praticamente sono uguali della Val d'Aosta a Trapani, no? Ecco, allora, da buoni italiani, come sono io e come sono loro, devono attenersi alle normative che ci sono a livello nazionale. Dopo, un'altra cosa, io vorrei dire della televisione. Io ogni tanto guardo Anno Zero, Balerò, eccetera. Anche lì, diciamo, i giornalisti dovrebbero essere degli arbitri, cioè al di fuori della destra, sinistra o centro, no? Come lei, Roberta, lei sarebbe una brava arbitro, no? Perché non va alla RAI? Cioè, lasciar parlare, io ho visto, no? Perché poi qua piangono a Radio 24, mi tengono per i capelli, proprio non mi lasciano, sono legata alla sedia. Ma una voce simpatica saprebbe anche forse di più di qualche conduttore. Ecco, io dico, io ho fatto caso, no? Quando uno parla, per esempio, di destra o di sinistra, cioè viene questa interruzione, a me mi dà fastidio, allora cambio canale. Dopo, un'altra cosa, il discorso di Berlusconi e delle immondizie. Noi abbiamo visto che l'ultima volta Berlusconi è andato là, insomma, in qualche maniera ha cercato di pulire la città, insomma, cioè bisogna intervenire quando che ci sono certe cose che non vanno bene anche a livello internazionale, insomma, non è mica bello che una nazione ci siano i giornali che riportano queste immondizie, eccetera, no? Se adesso Berlusconi è andato lì, se ha dato la parola e parla feste, a un certo punto cerca di far smaltire tutto, dopo si daranno anche loro, insomma, un regolamento, un qualcosa a fare. Claudio, lo spero. Intanto ti ringrazio per questa apertura da Veneto, mi fa molto piacere. Tra l'altro, se ci riesco, tra qualche giorno andrò a Napoli, cioè 2 o 3 giorni di ferie, vorrei vedere proprio di persona, insomma, cosa sta succedendo. Claudio, ti ringrazio. Daniela da Brescia, non volevo confondermi con gli ascoltatori. Daniela, visto che sei stata paziente, eccoci finalmente, a te la parola, Daniela. Ciao, buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io telefono con riferimento un pochettino a ciò che è stato detto prima. Tante cose. Di alcuni spettatori che hanno detto che dobbiamo vergognarci ad avere un Presidente del Consiglio così. Io sinceramente reputo che adesso lo si stia attaccando troppo. Inoltre, voglio dire, abbiamo un'opposizione che il massimo che trova da fare è andare sul tetto, occupare gli Atenei e non fare null'altro, quando, diciamo, ha avuto il suo tempo per fare le cose e non è stato fatto niente. Addirittura ora ci si atteggia a Salvatori della Patria, sembra che non lo si voglia più, sembra che siano loro quelli che devono salvare la patria. Addirittura l'altro ascoltatore dice, vabbè, ammira Di Pietro, per l'amor del cielo. Il padre Di Pietro dice, bisogna essere responsabili di ciò che si fa, non dimentichiamoci che è responsabile di parecchi suicidi, persone forse che hanno sbagliato, non lo so, però non ha pagato nulla di tutto ciò. Beh, non è che ha spinto lui al suicidio, Daniele, un po', insomma. In un certo senso, sì, scusa, sono emozionata perché è la prima volta che parlo, però in un certo senso sì, perché certi atteggiamenti, eccetera, eccetera, certi modi di colpevolizzare la gente magari ti portano a situazioni estreme. Forse ci sono state delle carcerazioni preventive che al tempo dovevano essere evitate, però insomma addirittura renderlo secondo me è una cosa che sto vedendo che non va in Italia, questa. Io non dico che il governo stia facendo le cose nella maniera migliore assoluta, però in fondo quando un membro del governo dice abbiamo fatto questo, l'opposizione arriva no, non è stato fatto, cioè la verità non sappiamo dov'è, però è possibile che sia tutto quello che sta facendo il governo tutto sbagliato, non ci sia niente di giusto. Non sarebbe più costruttivo dire sì, questo è stato fatto, quest'altro no. Forse ci crederemmo di più, avremmo... Daniela, allora a questo proposito voglio chiedere ad Aldo Cazzullo cosa ne pensa della riforma universitaria che è lì bloccata, insomma, con anche questioni di giochi, strategie politiche, non si capisce bene. Futuro Libertà comunque adesso ha detto che voterà di sì a questa riforma. Tu cosa ne pensi della riforma? Ma io penso che la riforma universitaria sia la cosa meno peggiore della politica complessiva del governo di Berlusconi sulla scuola pubblica, che è disastrosa. Cioè la scuola pubblica è considerata dal governo di centrodestra come un mondo ostile, nemico, da cui non può venire nulla di buono, su cui si può fare cassa, che va punito e castigato in tutti i modi. Io sono genitore di una bambina che fa prima media, quest'anno nella classe di mia figlia sono in 32 i bambini, sono degli eroi gli insegnanti che devono tenere a bada. Come quando ero piccola io, com'è possibile? Perché accorpano le classi? Certo, non c'è mica il baby boom. Ma io cito un caso personale, ma ce ne sono migliaia e migliaia e migliaia ovviamente di casi come quello. Ecco, io come contribuente, mi sento come persona che crede alla scuola pubblica, mi sento preso in giro e come me, ripeto, migliaia e migliaia e migliaia di altri genitori. Cioè, l'ultima cosa su cui uno Stato dovrebbe risparmiare, cioè la scuola, bisognerebbe investire nella scuola. Il governo Berlusconi fa esattamente il contrario. Nel caso specifico della riforma universitaria, a me sembra il tassello, cioè non mi sembra la questione più grave, anzi, la riforma ha punti interessanti, perché dare maggiore autonomia agli atenei, introdurre degli elementi di meritocrazia, ad esempio impedire che i rettori stiano lì tutta la vita, sono cose secondo me positive. I baroni, non mi scandalizza baroni. Che si paghino le tasse universitarie. Perché quando facevo l'università io 25 anni fa pagavamo circa 300.000 lire, adesso la media su 1.300 euro, più o meno, andiamo a fare calcoli con l'inflazione, più o meno non sono aumentate di così tanto le tasse. Il problema non è far pagare le tasse all'università, il problema è dare dei servizi di eccellenza e soprattutto costruire un sistema meritocratico per cui chi fa le università migliori e chi si laurea con i voti migliori poi possa andare avanti nella vita. Beh, questo è la grande questione italiana. Questa è una bella utopia, però volevo chiederti a proposito. Noi non crediamo più nel futuro, o meglio, pensiamo che il futuro è meglio conquistarselo con le relazioni personali anziché col sacrificio, col lavoro, con lo studio. Si cerca la scorciatoia del rapporto con il patrono, si cerca la scorciatoia del rapporto dell'alleanza matrimoniale o della sudditanza nei confronti del capo partito, del capo bastone, o addirittura si arriva al mercimonio, allo scambio proprio del proprio corpo per un quarto d'ora di celebrità televisiva o per un seggio parlamentare. Senti, l'Italia è il paese al mondo in cui c'è un divario più ampio tra la ricchezza e la cultura. Molto spesso le persone ricche sono ignoranti, molto spesso le persone colte sono povere, non solo perché gli insegnanti sono pagati troppo poco e perché i ricercatori restano precari fino a 50 anni, ma proprio per questo motivo, perché non è premiato il merito e lo studio. Aldo, a proposito di un'altra cosa che diceva Daniela, no? Ma l'opposizione che fa? Andiamo su Montezemolo, non si capisce, entra o non entra in politica, fa adesso qualcosa per l'Italia, la fa domani, tu ieri hai fatto anche scritto un commento sul Corriere, però a proposito di opposizione, detto Montezemolo ieri o l'altro ieri, c'è un'opposizione in Italia che in questi due anni ha guardato dal buco della serratura, è andata sui tetti ma non ha espresso una cultura alternativa. Tu condividi? Sì, Montezemolo ovviamente ha il bisogno di presentarsi come al di sopra delle parti, no? Non anti-berlusconiano ma post-berlusconiano, quindi bisogna attaccare Berlusconi ma bisogna anche di attaccare l'opposizione. Mi sembra che il giudizio sull'opposizione sia negativo un po' in generale, però è anche vero che fare l'opposizione a Berlusconi non è facile. Cioè, la signora Daniele diceva, ma criticano su tutto. Beh, insomma, l'opposizione sta lì per quello. Può darsi che magari a volte forse sarebbe più onesto, in effetti, sostenere il governo quando fa la cosa giusta. È possibile che il governo sbagli tutto. Infatti, ad esempio, l'UDC a volte ha votato con il governo. Però non esiste nessun paese al mondo in cui il Presidente del Consiglio sia anche proprietario delle TV private e nomini i capi delle TV pubbliche e abbia dei giornali e dei settimanali suoi. È una cosa che non esiste in nessun paese del mondo, questo è un dato oggettivo, non è la mia opinione, sfido chiunque a sostenere il contrario. Io non dico che il consenso a Berlusconi dipenda soltanto da quello, dipende da molti altri fattori, dico anche però che qualsiasi campagna elettorale, qualsiasi sfida elettorale con queste regole è una partita truccata. Carlo da Ferrara, perdonami, riesci a essere sintetico, Carlo? Assolutamente sì. Grazie. Allora, sì. Viva l'Italia intanto. Beh, meno male. Viva e questa era la mia premessa dal punto di vista di come cittadino italiano, sapere che io voglio bene da quello di Bolzano fino a quello di Palermo e dal punto di vista, esprimere il mio punto di vista sulla situazione dei rifiuti nella regione nella città di Napoli, esprimere solo il mio punto di vista, dire che io giro il nord Italia, la vedo bella, pulita e così mi piacerebbe vedere anche tutto questi paesi, Napoli eccetera, e il discorso di una concertazione di tutte le regioni, prendersi responsabilità sul fatto di risolvere questo problema in quanto emerge anche a livello sia europeo e ci facciamo vedere così in tutto il mondo, per me è scontato dover prendersi responsabilità e soprattutto essendo un discorso socio-economico, qui dovrebbe dovrebbe essere anche il ministro Tremonti, entrare e dire esiste un IRAP, perfetto, la regione, visto che se ogni regione va giù e dà una mano prendendo un pochino di rifiuti e facendosene carico, ecco che la regione Campania dà coi prelievi fiscali dell'IRAP, visto che noi altre regioni aiutiamo te, tu ce ne dai un po' a me. Ecco, questo sarebbe un po' il, ma senza avere questi concetti stereotipati, io sono di su, tu sei di, ma è assurdo. Beh, vedete che sentendo poi diretti cittadini, ascoltatori, delle opinioni e delle proposte vengono fuori. Caro da Ferrara, io ti ringrazio infinitamente e mi scuso ancora una volta se comincio a correre, ma Aldo Cazzullo, che a te chiedo di essere sintetico, che abbiamo ancora due altri appuntamenti oltre agli ascoltatori che stanno aspettando. Allora, cosa pensi? È colpa di Eva la crisi politica in realtà? Ma non è colpa di Eva, però il pezzo di Braccalini non era male, eh? Aveva una chiave interpretativa comunque interessante. E te lo dico in 30 secondi la mia opinione. Il fidanzamento con la Tulliani è stato per Fini un passaggio veramente decisivo della sua vita, no? Lui ha abbandonato davvero non solo la casa dei padri ma anche la casa delle mogli, nel senso che la rottura della storia con Daniela era proprio la rottura dell'appartenenza alla comunità. La comunità sì, è un caso da studiare, Fini, da questo punto di vista, come la potenza dell'amore a volte. La TV di Berlusconi sulla sua storia, il famoso video con Garucci, è stato secondo me l'elemento decisivo della frattura tra i due, che è una frattura sicuramente politica ma anche personale. Bene, adesso galoppando andiamo verso la satira, ma sentiamo di che tipo, sentiamo che cosa ha in mente, cosa sta cucinando Stefano Andreoli di Spinoza.it, pasta e fagioli? Buongiorno Roberto, buongiorno. Ad Aldo lo salutiamo, grande giornalista. Dunque, tanta carne al fuoco questa settimana, sappiamo che il fulcro dei notiziari è la protesta studentesca. Sì, tu la anche eri sui tetti, mi sembra, da studente ripetente. No, non ero sui tetti, ho avuto da fare. C'erano un po' tutti venditti, cioè c'era chiunque, quindi avrei potuto... Si notava di più se non c'eri o se c'eri, come diceva Moretti, forse più che non c'eri. Questa è una bella domanda. La Gelmini al TG1. Non comprendo le ragioni della protesta. L'inviato del TG1 la incalza. Quale protesta? Ecco, questa è appunto la dichiarazione del ministro. I contestatori e gli studenti hanno cercato di entrare anche a Palazzo Grazioli, ma non gli hanno spiegato che apre solo la sera, quindi era assolutamente inutile. Tra l'altro, appunto, parlando di tetti, Bersani sale sul tetto di architettura a Roma. Trenta lode, Esatto, visto la sua pagella. Bersani sul tetto di architettura, la gente gli grida non farlo, perché chiaramente hanno frainteso il motivo per cui Bersani... No, sta bene Bersani. Era sul tetto. Bersani, appunto, Trenta lode, ha pubblicato su internet tutti i suoi voti. Non ne ha mai più presi così tanti, infatti, e quindi è anche per questo che... Almeno una volta nella vita, però, scusa. Una volta nella vita potersi vantare dei voti, in effetti Bersani forse non avrà tante occasioni, ma adesso non voglio fare il cattivo profeta. Ecco. Episodio increscioso, Emilio Fede picchiato da un imprenditore. Sì, dall'Amaro Giuliani. L'uomo aveva comunque vinto regolarmente la gara d'appalto, per cui non c'è stato nulla irregolare in questo episodio, che chiaramente non possiamo che condannare. Certo. Fede ha ricevuto due pugni mentre era al ristorante, non ha dovuto aspettare molto tra il primo e il secondo. Questo è un aspetto, avanti, che vogliamo dire, ironico. Esce il libro che racconta i due anni di governo Berlusconi nella collana Harmony, ecco, uscirà ben presto. Questo libro chiaramente sarà un libro sull'andamento di questi due anni di governo Berlusconi. Io non lo leggerò perché non mi piace scoprire in anticipo il finale dei polizieschi. Poi te lo raccontiamo noi. Lo ignorerò. Questo è curioso, è incontro privato di qualche giorno fa tra Nicky Vendola e Schwarzenegger. Lui è l'uomo giusto per battere Berlusconi, ha dichiarato Vendola. E questo credo che a volte credo che sia, la forza si tiene tutto, sì. Sì, assolutamente un modo. Chiudiamo con una notizia drammatica, cerchiamo di drammatizzare. È guerra, è quasi guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud. Si è rischiato. Guerra tra Corea del Nord e Corea del Sud, si consiglia pertanto di uscire a Corea Ovest. Ecco. Vabbè, fidiamoci più della nostra viabilità che di Stefano Andreoli. Grazie comunque, grazie. Ciao. Stefano, è stato un piacere. Grazie caro, e adesso mentre corro io chiedo di essere proprio al massimo sintetica come sa essere lei, veramente geniale, la nostra Valeria Della Valle, alla quale chiederei, tra le tante parole di questa settimana, mi aveva incuriosito quando c'è stata la cosa della Carfagna, che però è rientrata, la Mussolini ha detto Berlusconi non ti fare infinocchiare, tu riesci in 33 secondi a dirci questa parola, dove viene infinocchiare? Sì, naturalmente viene da finocchio, come possiamo immaginare, significa appunto ingannare, imbrogliare. Ci sono molte ipotesi su come sia nato questo significato del verbo infinocchiare. Quella più facile interpreta il verbo con allusione al fatto che il finocchio, se aggiunto ai cibi, serve a mascherare un sapore non buono e quindi per estensione ecco il significato di ingannare. Però c'è stato un altro studioso che ha fatto un'altra ipotesi, e cioè quella che secondo la quale, siccome il era una pianta con la quale si facevano anticamente sortileggi e incantesimi, ecco da qui sarebbe derivato il significato di nuovo di ingannare, raggirare, imbrogliare. In ogni caso è un verbo che è stato usato a partire dal 400 da fior di scrittori, da Galileo lei a Manzoni, a Pirandello, e ne potrei citare moltissimi ma non lo faccio per motivo di tempo, e concludo solo dicendo che siccome in questa fase storica, proprio per quello che raccontavate prima, ci si sente molto spesso un po' infinocchiati, beh insomma rimettiamo in auge questo verbo che tra l'altro è molto migliore di suoi sinonimi che diciamo, molto volgari. È vero. Infinocchiare in fondo non lo è. Siamo è fini, siamo fini, grazie Valeria Davalle, fini insomma, sottissimo, così insomma un po' più raffinati. Ecco, devo dire che stiamo per chiudere, Aldo Cazzullo, stiamo proprio di corsa. Che conclusione ci dai, Aldo, quando poi ci ritroveremo naturalmente tra qualche puntata? Aldo, che possiamo dire di questa settimana e della situazione italiana? Viva l'Italia, il tuo libro. Sì, ma guarda, rapidissima sintesi, la mia impressione è che se fine Casini decideranno di far cadere Berlusconi, lo faranno cadere. Forse allora conviene tenerlo ancora sulla graticola, ma in questo modo non si fa l'interesse del paese, perché il governo deve essere messo nelle condizioni di governare. Non sarebbe male che forse Berlusconi considerasse l'ipotesi di fare un governo nuovo con una base più larga. Io mi auguro che il paese sia tenuto insieme, che non nascano le leghe del sud, che non nasca il boss del sud. Sono preoccupato perché vedo che il Risorgimento è denigrato, perché è considerato una roba da liberale, da quattro gatti. La Resistenza è denigrata, è considerata una cosa da comunisti di sinistra, non è così, fu fatta da militari, fu fatta dall'Italia. Si sta aprendo la botola. La scommessa è che gli italiani siano più legati all'Italia di quanto loro stessi non ammettono. E ci crediamo e ci teniamo. Grazie Aldo Cazzullo, viva l'Italia, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.